Italy from Sardinia, Italy from Sardinia. Attenzione, dici, c'è qualcuno? Chiuso, quindi riesco a respirare. Tu pensa, la notte mi sveglio con la bocca secca. A me mi manca anche la voce, Ucci. Ma te l'hai tagliata la barba? L'ho segnata sempre. Non l'ho tagliata. Ti spendo solo di sopra, me la taglio su un po' su brucolo. Ogni volta che vado alla barbiera mi costa 10 euro. Ma l'ho segnata io adesso. Noi ogni volta andavo per bene 10 euro. L'ho segnata io. Sui GoPro, la macchietta professionale me la faccio io a casa, precisa del zio una Eddy. Tu sa tagliarla la sotto dritta, mi avete messa sotto dritta bene, poi ma ripassarla un po', sai, nei punti più, dove ce n'è di più, a, come si dice, a, ma, assumi la parola, a, ma, come si dice, accorciarla, la parola vai con l'altra. Sfoltirla. Esatto, proprio quella lì. Sì, proprio quella lì. Ogni volta non posso pagare di zero. Io ultimamente ho speso, allora, 10, 20, 20 più 22, una cinquantina di euro ho speso, tra crema, la base, la barba. Poi tagliare due volte la barba, i capelli, 50 euro. E guarda, io prendo le lamette per tagliarmela e costano 15 euro la scatola. Io prendo, come si chiamano... adesso, e vabbè, quello che costano però sono, dai, le Mach 3, è copiata? Sì, le Mach 3, non le Mach, le Mach 3. E Mach, Mach, con la C finisce. Sì, le conosco, no, io uso le, no, mi trovo benissimo con le girette, due lame, ma so quante volte me la faccio, non ne ho idea, e non mi taglio neanche, mi taglio solo quando la faccio dopo ho mangiato, allora sì, altrimenti no. Ma l'ho fatta poco fa, perfetta, senza problemi, non c'è nessun problema, capito? Che bello, mi sono fatto fare una, cambiare una fibbia dal calzolaio, yes. Però mi ha detto una cifra e poi ho avuto 3 euro in più, perché se ne ha creati. Dicevo perché li ho pagati di più. E se invece si faccia brughicchia, cazzo, tanto lo sanguregge, però una volta avevo preso 15 euro, adesso 8. Avanti Gavino, buonasera. Buonasera Gianni, buonasera Luca. Sì, scusa Gavi, ciao, conosco e ci ho avuto sentito. Ciao Gavi, salutone, buonasera anche a te, avanti Gianni. Eia dai. Oggi sei libero Gavi? Sì, oggi a casa. Ma sei uscito? Lisba, a casa. E allora che ti rilascio un po' qua. E anche io sono a casa, io stamattina dovevo scendere a Porto Torres perché sono andato a mettere GPE dalla macchina a carica e non ce l'hanno sino a lunedì. Volevo andare a Porto Torres perché usano lo stesso gas. Gli altri che ci sono a Sassari, ce n'è uno vicino a casa, ma mette gas di quelli misti e mi sporca l'impianto. E mi ha detto Gabino, quello che fa l'impianto a gas, è di non andarci qua, di andare a Porto Torres oppure a carica. Sono gli unici rifornitori che mettono propano puro. Non lo so cosa... com'è la questione del gas? Non me ne intendo. E quindi dovevo scendere, poi invece fa una cosa, fai l'altra e non ci sono sceso, dai, andrò a benzina, tanto io posso andare sia a benzina che a gas. Sì, infatti, se non li fa male la macchina. colpo quello non pieno già. Guarda, mi dura una settimana. Una settimana andando e tornando, me lo fa tranquillamente, me ne avanza pure due tacchette da. Positivo. Va bene, va bene. Adesso dal 2035, cioè non rimatricolo neanche più macchine a gasolio e a benzina. Solo elettriche. Anche a gas. A gas, sì. È vero. Va bene, va bene, va bene. Oggi sono avuto la lancia da, vabbè, stamattina ho lavorato, però stasera sono tutta la sera a carica, le mie signore sono uscite, dice ci vieni, però mollami. Vabbè, se non è gara, però lui, se invece io stamattina mi gioca pintato, mi si è rotta l'asse del bagno e non riuscivo a svitarla. Alla fine mi sono incazzato e te lo asciaghetto o non lo faccio come mi ha detto Natalino, ha giubilato la mola, la si è truccata il cicumino. Ho capito cosa già? La sede del water si è rotta, no? E però non svittava, capito? I piedi non svittavano, erano ossidati e li ho dovuti tagliare con la mola. La sede del water? Ma quelli che sono in terra? L'asse del water, no? Dove ti siedi? Con lui. L'asse del water. Ah, l'ho capito, il copricabinetto, ho capito, sì. Basta prendere... Vabbè, quelli in plastica non sembra niente. Io ne ho, bravo, uno mio fratello, quello massiccio, Sì, quelli proprio buoni. Però c'hanno i cosi in plastica. Io sono sempre a zingheggiare. No, volevo rispondere alla Grafino, mi sa che siamo vivi nel 2035. Sì, saremo vivi. No, lui, speriamo di sì, capita, se non scoppia la bomba atomica, che siamo vivi. Vabbè, è quello che te devo dire, ci mancherebbe. Questo vale per me, per te, per tutti, Cazzo mai di niente, pure, di giovane. Cazzo è morto anche, non so se la conoscevi, ma penso di no. Non sei mai conosciuto a Nicolino Carri di Gavaldo, l'avete conosciuto? Nicolino Carri di Gavaldo? Carri di Gavaldo era quello di Via Rosello, che era macellaio. Tu capito, l'hai mai conosciuto a Nicolino Carri di Gavaldo a Sassari? No, non l'ho conosciuto. Comunque la sorella è morta, giovane, cacciava al mare al corso. Si è sentita male, al mare. Ce l'hanno portato all'ospedale, 52 anni, 53 anni ci aveva. Cribata distante, poveraccia. Secondo me sono i vaccini che si sono ammazzati a tutti. Lo stanno facendo per sterminare un po' la popolazione che siamo in truppa. Quello l'ho detto io, stessa cosa. Ma non è mai quello detto lui, quello tutti. Stiamo facendo un po' di piano piano, uno per uno, capito? E ne giù butti di botti, va. Faccio un po' di botti. E le scarpe mie bianche, sono sparite solo. Sì, proprio così, Gianni. Vabbè, alla fine... proprio lo vogliono, devono far fuori, mi dispiace dirlo, scusate, le persone magari hanno una certa età, non hanno i giovani, cazzo. E insomma, nessuno, io dico nessuno, perché devi farli fuori, per una certa età, cazzo, hanno dato tanto, hanno messo una vita per allevare le famiglie, studiato, e tu li vuoi ammazzare. Io guarda, ho portato una volta in ambulanza questo anziano che ci aveva 92 anni e ci aveva 41 di febbre. Quando siamo andati lì abbiamo deciso di portarlo a pronto soccorso. Siamo arrivati a pronto soccorso e il figlio stava aspettando fuori perché non l'hanno fatto entrare. Però ha sentito quello che ha detto il dottore. Il dottore ha detto, ma io non capisco perché la gente così grande non fanno come in certi paesi che gli fanno un'iniezione letale e ce ne escono dalle scatole. Quando mai si devono portare persone così grandi all'ospedale perché hanno una febbre? Questo è quella casa intesa di un video, lui, se non lo fermano i poliziotti ammazza il dottore. Io lo volevo dire, cioè uccidere queste persone anziane, però dico, stavo facendo un stadio un po' di persone, tra giovani e persone grandi, capito? Quello già. La preferenza, adesso ti faccio un esempio, io ho un problema con questo cazzo di naso. Io sono in lista da quasi un anno. Mi ha detto che la tesa era 2 e 3 anni e prima di me ci sono persone anziane che hanno problemi. Gli ho detto al mio dottore, cosa faccio? Aspettiamo ai 2 o 3 anni finché mai ci sono vivo ancora. E purtroppo funziona così, mi ha detto. Vabbè, se ti rivolgi a una certa persona magari ti aiuta. Invece mi metti in lista, cioè sono già in lista per quanto riguarda l'operazione, l'intervento, no? Dopo si può solo respirare con la bocca, assolutamente, a parte che sono sempre mal di testa, perché non arriva, non si chiama bene la sangue al cervello, capito, ti viene mal di testa, non avendo la respirazione dal naso. E lui ha detto che devo aspettare, infatti mi ha dato un numero di questo dottor Tola, mi pare, forse mi dico, Tola, sì. Anche lui si occupa di queste cose. Lo stavo chiamando, non mi ha risposto. Adesso provo a chiamare lunedì a vedere, vediamo un po' cosa mi dice. Guarda, mi faccio fare un'altra vista. Mi ha fatto questa telecamera nel naso per vedere, si è fatto sì, e si è un po' messo male, mi ha detto. Poi la gola va controllata, tutta la gola bene. Mi ha detto, no, te non posso stare così, devo stare sempre con questo spray, cosa devo fare? Siete voi i medici, chi non so cosa fare io. Vado dal medico mio, cosa mi ha detto già, che non lo sa niente, non può fare niente. Perché sono loro che comandano lì, capito? Così è stato per me, visto quanto ci hanno messo a operarmi, ho dovuto fare file, mi dovevano operare, poi hanno rimandato, insomma, invece hanno fatto entrare qualche duro in contatto, capito, prima di me. Perché io ero già lì, avevo già fatto il pre-ricovero, figura. Poi dico un'altra cosa, il medico, io avevo la tosse. Pensavo mi controllasse, dice che non è niente, quella ce l'hanno un po' tutti, a dirmi ti do questo, ti do quello, nulla. Cioè questo medico veramente mi sta urtando le balle, il giorno che mi rompe le balle veramente mi sta dubbiarsi. Cazzo, il bisogno di la scrivania, cosa vale, mi passa a casini. Mi pare tu sei un medico, io vengo qua perché ho un problema, ma come mi visiti? Ho giovanotto. Ehi, ce ne sono sciacquini che fanno solo le ricette e basta. C'è l'acqua, comunque ti fanno la ricetta, ti mandano dallo specialista se ne lavano le mani, capito? Fanno così. Quello che ho io è molto bravo, quello che ho io, guarda, ne avevo una brava per andare in pensione, ha chiesto di restare ancora e non l'hanno lasciata. Sta facendo ancora, sta lavorando, però non per l'ASL, l'ASL non lavora più perché ha raggiunto l'età. E io mi sono spostato da Posadino, Giovanni Posadino, non so se tu lo conosci, è quello che c'è di fronte a fianco alla farmacia che c'è su al mondo. No, ragazzi, non lo conosco. Ma ti pare? Vabbè, dai, avanti Calvino, riprendi. Vai, Enzo. E adesso anche il mio va in pensione, il medico, volevo cercare uno a poco adesso. Lo cercheremo. Luca, non è buono ammazzare l'anziano, lo vuole ammazzare a tutti. Siamo in troppi, vuole ammazzare a tutti. Basta non farsene più vaccini, io non ne posso più. Io ne ho fatto 3 e basta. Ma anche io non ne faccio più vaccini, ho finito. Addirittura a me mi avevano chiamato al centro diabetico per vedere se lo facevo. E anche a me mi avevano detto di farlo. Ma non ne faccio più, oh, zero. Anche con l'influenzale faccio, nulla, non mi interessa niente, hanno giocato troppo, basta. No, con l'influenzale non l'ho mai fatto, la mia dottoressa me lo diceva ogni anno, ma lei è a rischio, io non ho mai avuto la febbre, una cosa, può venire la freddura e la tosse, ma mal di gola, ma febbre non ne ho mai avuto. A me lo stesso salire la febbre è raro, però a me quando mi viene la febbre vuol dire ho fatto deficiente io, uscire raffreddato, uscire da stare in maglietta, sudato, queste cose qua, quindi diciamo che non rimbrazza da me, è molto raro. Sì, anche per me, no, io qua che mi ricordi io, vabbè, magari da piccolo sì, ma da una certa età non ne ho più avuto di febbre e cose del genere. Il vomito, il morbido da piccolo me lo ricordo, però cui non ho più avuto nulla, di febbre, di queste cose qui non ne ho più avuto. E diciamo che c'è sempre un punto interrogativo su questi vaccini, e visto quanto ne sono avanzati si risolvono peggio, perché nessuno ci è andato a farci. Scusa che c'è una bassa già. Io. Avanti Luca. Lo so, ti abbasso qua. È un casino, è cazzo un casino. Poi già per le visite, adesso vedi, per mia madre aveva una visita cardiologica. Cazzo, gliel'hanno spostata perché il medico lì a San Camillo non si è sentito, cioè non stava bene, si è ammalato. E beh, allora adesso cosa cazzo devo fare? Ce l'hanno a pagare. Perché ho chiamato per un altro appuntamento e mi hanno detto che non ci sono posti. Qua a Sassari non c'è niente. Come faccio a spostare la mia madre? Me lo spieghi? Che io non ho un mezzo. Ascolta, provato a chiamare come si chiama? Quando attore quello che c'è a Sassari in via cosa? Aspetta, Natali non lo sa il nome, non mi viene adesso. Amarungiu. Amarungiu. Ciao. Quello lì prova a chiamarlo direttamente, magari ti fa. Ciao Cinco. È bello, ma comunque. Tantissimi anni fa. Io dopo il Dio ho lasciato la sigaretta, ti parlo del 2008. Il figlio, vabbè, adesso non c'è più lui, è morto. Ma c'è il figlio, c'è, fa ecco, l'eco al cuore, fa tutte queste cose qua. Avanti, ma lui mica domani, no, domenica c'è il mercatino, ricorda. Sì, domani, Italia, lo so, sono amico mio lì. E domani, sì, domani, infatti non mi ricordo se a venerdì o sabato. Comunque io lo devo fare, sempre di aprire, la visita o Luca, come a Roma. Ah, ho capito. Cioè, cosa c'è, cosa, ma dove l'ha messo pioggia, ragazzi? L'ha messo pioggia. Come si fa a fare questa cosa? A poco va domani. Comunque, Manuel, ti chiamo lunedì, mi per quella cosa là, capito? Sì, tranquillo, va bene. Olu, prova a chiamare. Ma tu, Manuel, l'hai fatto tramite CUP? Sì, tramite CUP. Allora, sai che sicuramente devo fare cosa buona, quello che deve fare la madre di Luca. Prova lui a chiamare direttamente, cerca dottor Manuel, via Diaz, mi pare che sia, vero? Sì, sempre via. Sì, mi ha dato l'assistente il numero, ho chiamato, ma non mi ha risposto. Comunque, con l'impegnativa posso prendere l'appuntamento, perché mamma c'ha l'esenzione. Sì, loro sono affiliati alla SL, dai. Convenzionati, sì. E convenzionati? Sì, vabbè, affiliati, convenzionati, se la parola giusta è convenzionati. Chieve, Gianni, doppio numero, vitamine, chieve. Andate, Gabino. No, Gabino al telefono, con lui. Ma noi domani se non piove, se piove è un casino. No, se piove no, ma non è anche, ma la vedo, io sto parlando ieri con lui, dove sta scrivendo, se piove no, dobbiamo cambiare. Ma giornate, la chiamate, fatevi sentire, vengo pure io. Se piove. Se piove no. Se mette dove siete, ora faccio un salto in bici. Però la bici elettrica, salgo in bici. Ci metto 2 minuti ad arrivare lì. Capito? Via. E niente, vabbè, adesso posso cercare, quasi pronto, dai. Metto due punti di gelatina e quei 2 centimetri sono rimasti e poi devo uscire che ho appuntamento. Niente, adesso vedo un po' cosa riesco a fare, però stamene a casa, una giugata, mi devo consegnare 2 telefoni a un amico. Io ho controllato, siamo là a posto, uno ha tirato, si conecta al wifi, forse ci manca qualcosa, boh. Invece l'altro dice che accendeva, si spegneva, l'ho provato, testato, è a posto, quello è perfetto. Ma dopo non la riporti al scale, non lo riporti? Io adesso la porto adesso, poi stavolta quando rientro, verso le l'una, le 2. Ah, figa, sali su. No, io lo porto verso le 7:30, così, no, alle 7, poi alle 7:30 devo partire, devo fare Roma. E allora, poi mi se la mette voglio, io ci organizzo ma se vuole venire Emanuele, mangiatelo a pizza, che lungo. Cosa ne dici, Emanuele? Bravo di voi, buono da Ciria. Ciria si chiama, tu donna già. Ciria, come te si chiama? Ma ci vediamo Ciria. Pensieri a Garibaldi. No, io andrei a produttore, se hanno aperto la ruccia. Mi hanno detto che la fanno come vuole. E andiamo, come la volete? Organizziamo mai qualche giorno prima, no all'ultimo momento. Andiamo e te la mandiamo. Anche per me un attimo, arrivo subito. Davide, riprendi. Oioia, poi lavoro il video sul telefono, il video di Napoli, gli affondamenti di Napoli. A me mi stavano bruciando gli occhi poco fa, da me se ci sono stato troppo, e mi stavano bruciando, ma in una maniera allucinante, ho dovuto smettere di guardare perché mi stavano bruciando forte. E io non è che ne passo tanto tempo al telefono, non è che... Però ogni tanto guardo Market Cleaning, se c'è qualche occasione, qualcosa, capito? Quindi, ma non più di tanto, non più di tanto. Poi ieri notte, poi mille notte sono andato a Ciria, perché mi ha chiamato questo amico, e ci venite a cena fuori. Sono tornato a casa, mi sono giammato e sono uscito da Ciria a mangiare. Mi sono andato a mangiare una fitta ieri notte. E io che ho pensato, Gavino è stanco, se non sei andato a letto, poverino, magari c'è dormito di vado. No, sono andato a mangiare una pizza. Sono andato a mangiare una pizza. No, che poi pizza ho mangiato un primo. Ma ci voleva per attaccare, ci voleva per attaccare, ogni tanto ci vuole. E infatti. E vabbè, anche per andare con la famiglia, cosa è bello, andare in mezzo alla gente, mangiarla a casa è una cosa un po' scontata. No, lo so, è fatto già. Mi sto accorgendo una cosa, è conviene per andare a mangiarla fuori che può fatela portare a casa. Perché aggiungo 25-30 euro in più di quanto spendo a casa, però ti fai un giro, perché ne stanno un po' approfittando. Per portartela a casa ci vogliono 3 euro. Tu pensa, da me me la porto da sorso qua a casa, mi chiedono un euro a pizza mi chiedono, quindi la metà sono 22, 24, 25 euro. Vai, ho detto, beh, mi ha trovato questo amico perché ci siamo incrociati quando sono sceso. Allora ci venite a mangiare, io pronto. Sono andato e sono uscito da. Hai fatto bene, almeno è staccato la spina. Almeno ti distrai un po', una chiacchierata, due risate, ti passano dentro. Poi una chiacchierata, due risate, due buoni di vino. Addirittura. Dai, io quando esco, non frega niente. Non sto a barare a spese e a niente, una puttinuta. Sì, no, è no issue, sì, no, però se mi metto in gioco. Vabbè, sì, ma io vino non è che ne bevo, magari una birra, sì, ma vino proprio no. Vino deve essere proprio di quello buono, un bicchiere già me lo bevo, però a tavola così, con la pizza ci sta più bene la birra. No, io vino rosso. Io vino rosso buono, perché non è che bevo tutti quanti i vini, io per i vini sono un povero mai giriato. Io il vino bevo quello buono e soprattutto Canonau, quello che macchia il bicchiere. Quello dalle parti di Nuoro, quello lì, una volta io praticamente ero sposato con una donna che aveva i parenti, tutti nuoresi, il padre e la madre, eccetera, eccetera. E quando siamo andati lì, perché mi hanno voluto presentare i parenti, che si usa così, prima di sposarci, praticamente i cugini mettevano un vino a tutta andare, quando non facevo il tempo a finirlo, che subito per riempivano il bicchiere, allora sono andato lento, però la vista arrabbiata ce l'avevo. Sì, no, io... se sono in compagnia ne bevo, non è che ne bevo ubriacarmi, però già ne bevo, già il vino buono mi dice, a me piace tanto. No, io resisto molto alla birra, ne posso bere, abbiamo bevuto una volta in pizzeria 7 bottiglie, una cosa esagerata, eravamo in 3, 7 bottiglie di birra ci abbiamo bevuto. La birra mi fa venire acidità, soprattutto le Clusa e l'Heineken mi fanno venire acidità, sono birre che non bisogna bere quelle, sono birre che non bisogna bere. A me non fanno niente, bu. E comunque ti parlo di quando ero ragazzo, adesso non vedo più, di quando ero ragazzo, siamo andati tutti in greffa, in pizzeria, e in 3 abbiamo bevuto un po' di birra, gli altri l'hanno presa lanciata, tutta roba così schifosa, gazzosa, e noi abbiamo bevuto birra, e il cameriere non finiva più di togliere le bottiglie e portava altre. Perché c'era una specie di scommessa là. Sì, e mi è capitato di fare i giri di pizza a portare le giraffe, quelle giraffe da 5 litri, a portarne un be, magari a essere in 15 a bere birra, ma partivo ogni giro, partivo a caraffa, con le giraffe che ti portano la birra fresca, dai, e mi aiuto a bacchiare, dai. Sì, io adesso non so che toccarlo, sì giusto mi bevo un bicchiere così mangiando la pizza, anche due, però non è più come prima quando andavamo tutti in greffa e in compagnia, non facevi solo in quei momenti lì, perché poi non ero tipo che mi compravo la birra e me la bevo in carriera come fanno certi, però quando andavamo così tutti insieme, sì, ne bevevo. Vabbè, a bere in strada no, però magari anche andavo al bar, si beveva, ai circoli bevevi, poi già io avevo i circoli, quindi qualcosa già me l'ho bevuta, però fuori mai bevuto in strada, mai fatto il randaggio, queste cose mai. Allora io guarda, venivano quei tossici che stanno in via mare, sotto le tettuglie, venivano davanti da presto, si prendevano la birra calda che fa schifo, e si bevevano la birra calda, e era tutti a bocca a pulla, quando arrivavo io col furgone per scaricare, li vedevi tutti i gatti a bocca a pulla, e io dicevo, ma come fanno a bere la birra calda? No, come fanno ad avere i soldi a comprarsi la birra? A volte ce ne sono un paio fuori dall'Eurospin che mi fanno schifo, non ce l'hai i centesimi, no, non ce l'ho i centesimi, non mi raggio, non gliene do, ma proprio non gliene do, perché se va, guarda, se mi dice, se mi avesse chiesto, andare a fare la spesa, io vieni con me, riempiti il carrello, però da me birra non invitano, e manco di là. Quelli poi, per carità, tu te lo ricordi quello che chiamavano Pantera a Porto Torre? Sì. Allora io facevo un giro degli incassi, no? Dei negozi, alla fine della giornata. Prima di scendere dal furgone guardavo sempre dagli specchietti per vedere se c'era gente, è normale, c'hai su di tutti i negozi. E questo Pantera stava passando sotto il furgone mio, sotto il furgone, e io ho guardato lo specchietto, tra che ho chiuso tutte le sicure, ho visto che stava guardando e si è buttato a mosi. Scendi che a me mi servi di là, chi non mangio di là io, ti devi dare di là a me, che so quell'altro. E in mia madre avevano già chiuso la porta perché dovevano contare i soldi, quindi avevano già chiuso la porta. E io sono sceso dal furgone e dammi dire di no, c'erano tutti i gatti tossici pronti sotto con il tetto ieri, forse volevano provocare la rissa e poi magari rubarmi i soldi. E io ho bussato la porta, lui stava venendo contro di me, mi sono bussato alle spalle alla porta e gli ho avuto la banda di medici dalla Sabassi. Meno male che poi hanno aperto, ho detto chiamate i carabinieri, se non hanno voluto chiamare i miei colleghi, no lascia perdere, quello lì ti brucia la macchina, ti fa rispetti, questo e quell'altro. Ma cosa brucia la macchina che è un mincio risalito, era che brucia. Era perché è morto, ma per carità, ma quella gente sono una croce, insomma, quelle persone così devono fare fine butta tutte le cose, perché sono solo una croce già. Una volta sai cosa ha fatto? C'era questo ragazzo su un motorino lì, proprio dopo averlo artigianato lì, scendendo dal corso, lì dove c'era l'artigianato alla fine quasi all'hotel Elisa, quasi per arrivare all'hotel Elisa. Lì era fermo con la moto e stava parlando al cellulare, è passato lui, ha avuto un ciaffo nella lampada della moto, senza motivo così. Stavo qui, bello, no? No, sono persone che guarda, a me quando sento è morto quello, poverino niente. Quella gente non c'è nella vita, l'ha solo fastidio, e basta. Non uno dice purtroppo non lo vuole lui, no, io la ci voluto. Io queste cose qua non le sopporto, io queste cose qua non le sopporto. Ma quando mai devo entrare, mia, scia, fatti progetti così, ma io la tutti quanti presi e burroso. E c'è gente che non ti lascia in pace, hanno picchiato questa donna, non stavo qua su internet, tu devi vedere come l'hanno ridotta, hanno fatto gli occhi gonfi, tutti neri. Questa donna che stava tornando, lavorava in un pub, è tornata nell'androne del portone e si è ritrovato questi tipi cappucciati, l'hanno presa a pugni, a calci, hanno preso la lametta e l'hanno tutta sfregiata in faccia, ma dimmi tu. Perché sono dei miserabili, purtroppo la situazione è questa già. Quella gente quando sgarra devono pagarla subito, ma proprio lasciare i segni cattivi. E c'era uno a Porto Torres che prendeva e chiedeva un euro e ha fatto lo sbaglio a prendere a infortunare una tipa e poi non so come è successo, l'avevano arrestato e in galera lo so se l'hanno infatti, l'hanno abbiccio la bocca, ma la macchina dall'altra, con la lametta, adesso c'ha il sorriso, ha proprio il segno del sorriso in faccia. Yes, allucinante. Sì, io li conosco quasi tutti quei tossici, almeno di vista, non è che li frequentavo, ma li conoscevo tutti, perché venivano in negozio, allora, infatti poi l'hanno chiuso il negozio, facevo orario continuato, prima via mare, poi l'hanno chiuso e riapre alle 5 a mezza, aspettava l'ora di pranzo che rimanevano in due, uno alla cassa e uno in salumeria. E praticamente entravano, rubavano i liquori e se ne scappavano, capito? E nelle commesse cosa li facevano? Sono due donne, cosa fa zia? E praticamente questo qua una volta è andato alla cassa, quando c'ero anche io, e c'aveva il giubbotto e stava pagando una bottiglia di birra. Cosa gli è successo? Che sfortunatamente a lui dal giubbotto gli è caduto una bottiglia di coso, di whisky, è caduto sotto al giubbotto e si è spaccata. Adesso o la paghi o ti chiamiamo i carabinieri. No, ma non c'è nessuno, adesso ti chiamiamo i carabinieri, avevo già mandato i carabinieri. E cosa gli hanno fatto? Niente, perché non gli hanno fatto dare, lo portano in caserma, le vanno a maternale, bacia, non li vanno venuta. E io ho visto che si erano ricaricati in macchina da bui, visto che l'hanno fatto, non lo so, poi hanno chiamato le commesse per testimoniare, per questo, è un casino sempre. Se vogliamo Nicole vi saluto, dai, sto uscendo. Non so se faccio tardi, dipende dalla voglia. Per il momento la voglia c'è, poi chissà più tardi, si vedrà. Buona serata, buon divertimento. Poi già, trovato, ci organizziamo per mangiare qualcosa. Poi possiamo uscire dal volontario, se vuole venire Gavino con noi. un paio, noi, boh, non so, io, tu, Ginco, poi non so, vediamo un po', dai, mi organizzate male qualche giorno prima, se vuole, se ne avete voglia. E io va bene, dai, e riparliamo, dai. Scappa, ti ho detto che vola di che cosa? Ma già c'è una pizza già. Ah, la pizza, no, tu mi hai detto, se ne ho voglia, non vediamo, ci vediamo più tardi, se ne ho voglia di che cosa? Ah, di fare fuori in giro, di fare la voglia, dai. Tanto sicuramente che incontro anche Marina. Ho più, sono più libero adesso, già posso fare tante cose, visto che prima ero più legato, un casino. Anche se volevo, lo facevo comunque, ma poi ero sempre in bisticcio. Adesso è più tranquillo e sereno e diciamo che faccio il cazzo che voglio, là. Ehi, vabbè, adesso ha saputo la libertà all'inizio, sì, poi però io so cose che ho già provato e ha saputo all'inizio la libertà, poi però comincia a sentire la voglia di avere una persona accanto, eccetera, eccetera. Ma per me non è così, come dici tu, comunque, vabbè, so quello che ho passato, mi ricordo le cose belle e le cose negative. Negative sono tante, capito? Comunque sia, lei vuole tornare. Io se dico vieni a prendermi adesso, lì viene, alla grande. Ma siccome io non gli do questa possibilità, al momento gli do questa possibilità, poi si vedrà. Poi magari se decido io che lei non vuole più, meglio così, va bene uguale. Vabbè, lo vedrai tu, già se mi hanno vaccinato, vedi tu, dai. Andà a me, avanti, capito? Ti volevo chiedere una cosa, già però non mi ricordo, riprendi. Oh, divertitevi, ciao, capito, riprendi, ciao. Ciao, ci sentiamo, divertiti tu, noi siamo a casa. Sì, ciao, lo divertiti, io già sono a casa, no? Io già sono a casa, sto bene così, oggi sto bene così. Poi domani si vedrà. Hai detto bene già, nei primi momenti prendi e tu assaggi la libertà, queste cose qui, però poi già le persone, ma non per bisogno di cosa, ma la vita di coppia è sempre bella, non c'è niente, è bella la vita di coppia, è bella la famiglia. Uno diciamo che è solo, che non ha una compagna, esce, fa quello che vuole, va a sviluppare e torna, però quando torna a casa sei sempre su. Dopo invecchi sei solo, non hai, se ti senti male o se hai bisogno di qualcuno sei solo, è un casino, cioè è bello da una parte e brutto dall'altra. Da una parte ti organizzi tutto quello che vuoi, fai le cose come vuoi tu, non c'è nessuno che ti gira le scatole ogni volta, ti dice no, fare così che non mi piace, fatto così, fallo cos'ha. Però ci sono i pro e i contro. Sì, infatti, no, ma vabbè, ognuno fa quello che vuole, la vita sarà la vita di ognuno di noi è, cioè, è unica, quindi non la può gestire. Non la può gestire nessuno, solo noi. Però l'importante è fare le scelte giuste e non prendere, per essere belli, non stare soli e star male. E non fare i galletti, quando c'hai una moglie che ti vuole bene, cosa, non andare a fare il galletto, che poi magari per una fesseria rovini tutto. Sì, è vero. Ne vedo tanti capitalizzata e vanno a cercare le donne degli altri, vanno a cercare la donna e... però a casa c'hanno la moglie che non a casa hanno la moglie e non si sanno tenere conto quella, capito? Tutte le persone che vedo in giro facendo gli splendidi, quando io li vedo in bar, facendo le scene con la barista, che sai che quello è su cui sei sposato, oppure fanno, ma vai di una casa dove fai prima, vai, è cercato un travaglio, capito, no, capito. L'altro giorno l'altro giorno c'era questo tipo al bar, io la mattina mi prendo un caffè, quando posso mi fermo, mi prendo un caffè o qualcosa per fare la colazione, a metà mattinata mi prendo un caffè. Mi sono fermato la mattina, alle 8:15. Lui era lì, bevendoci il caffè, gli hanno offerto il caffè. Prende, entra un altro, ebbene, cosa mi fa un caffè? Allora, nel frattempo, che c'ero io, no? Che non ho bevuto il caffè, ma per conto io ho fatto velocissimo. Il tempo del caffè, una chiacchiera, due chiacchiere. Adesso sono corso perché era già fatta ora. Faccio il viaggio, beh, vai, beviamo un caffè, mi fermo a prendere un caffè, di nuovo lui di lì, sempre lì, mi devo sapere se siete caffè, ma questo è il tuo di ogni giorno, capito? Non stai a fare la vergogna. E tu ti accrocco, burro. Infatti, va per carità. E poi ci fanno quelli, poi dicono, non mai un vostro, io vedo, mi dava tu vai schifo, noi che fa, tu vai schifo. Tu fai schifo, ma non gli è stato detto, però l'ha capito. Poi ma c'era tanta gente che sta buttata nei bar, li vedi bevendo tutta la mattina, io passavo 5-6 volte col furgone, vedevo sempre le stesse facce. Esatto, pure al bar, invito, se lo possono permettere. Se lo possono permettere, perché capito, noi siamo nati pubblici, dobbiamo lavorare, loro sono nati ricchi, quindi possono andare a fare tutto ciò che vogliono. E già andano in Brughisi che pigliare il reddito cittadinanza. Tu via, alla faccia russa che si può trovare lì, vedi, a vedere uno che se la casa ci doveva dare 10.000 euro di mutuo, siccome noi siamo una cooperativa, quindi risultava che praticamente se non pagavo lui dovevamo pagare noi, perché ancora non avevamo fatto il distacco come proprietà, no, era tutta una cooperativa. Grazie, questo qui con 10.000 euro di muffi, grazie, era sempre bussato a rubare, pari a che ti pigliava a Barubù, scusando la frase. Ma, cioè, hai debiti e cose, ti metti a stare al bar bevendo birra e si la futtia a Bruffi, se ne fregava. Poi alla fine gli hanno sequestrato la casa e ciccia. E di lì non se ne è più fregato, lo vedi? Vedi che poi le cose tornano indietro, quelle lì. Io forse te l'ho già raccontato. Questo qua a travagliare, sì, io a travagliare. E va così, si paghi da noi, così verso che viene a fare noi, e si può arredire buoni. Ma quello gli ho detto, ma ti va la vergogna? Ma non te ne fa la vergogna? No, guarda la cosa, vedi a voi, che non ha che lo Stato, che futtendo, c'è di versante di là, a me non mi interessa, io voglio uscire, vai. E dove chiedendo sigarette una all'altra, aspettando che offrivano il caffè, e il caffè, lo manda loro, e poi non è che c'hai un paio di scarpe a tennis, non è che c'hai, che fatti fare la prima le maglie, tu, ah, dico una cosa, ma tu cosa mi fai, no? Non ha messo i dubbi, la gioco non c'è più andato, l'ha sbattuto fuori. E quella lì è gente che poi quando finisce il reddito di cittadinanza va a dire a fame, avanti futti, però dopo quando non gli danno più il reddito di cittadinanza fa la fame, capito? Poi vanno a rubare perché non c'ha nessuno. Ma quelli già, quelli sono siccome hanno ricevuto anche una scarsa educazione dei genitori, perché hanno ricevuto anche una scarsa educazione, perché una persona a 45 anni, a 43 anni, a 47 anni, diciamo nel miglior periodo di lavorare e realizzarti, tu non puoi stare a chiedere roba al prossimo. È una cosa è inammissibile, è una cosa che non ci deve essere sulla faccia della terra, non deve esistere. Ma per orgoglio di uomo, guarda che la donna, guarda che ci sono donne, guarda, ci sono donne che me, che hanno più orgoglio, che hanno più orgoglio degli uomini. Capito? Ma quando mai tu capita che figli, anche padre di famiglia, con un bambino, capita, no, mia moglie già lavora, mia moglie, adesso stiamo bene così, è bene così. Fattene la vergogna, ma fattene la vergogna. E ti dico, ascolta, ma te lo vuoi fare per la giornata di lavoro saltuariamente? Dipende quanto mi dai, a chi è giocato mito, sì, ma vabbè. Io ti do con mito tanto, e tu ci vieni. Capito, i soldi vanno bene, però bisogna avere se sono libero, ma si sia rubato. Ma mi porto in commissione, pure vabbè, fate le commissioni. C'è gente che non la gara, c'è gente ignorante, ignorante perché non pensa al futuro. Non è che devono vivere solo adesso, poi c'è il futuro, quando saranno anziani, quando non mettono nulla da parte, non hanno un futuro, capito? Queste persone qua. Già che chi lavora e chi guadagna è difficile mettere qualcosa da parte, figurati che hanno travaglia. Oh, yeah. E poi lavora la moglie e cosa devi fare? Un magnaccio, cioè cazzo, campare dalle spalle della moglie, lui. Gianni credimi che oggi, e tu lo sai meglio di me, sei una persona più grande di me, lo sai, hai avuto famiglia prima di me, lo sai. Forse prima qualcosa riuscivi a farla, riuscivi a mettere da parte le 100.000 lire perché diciamo la moneta valeva di vero, aveva un valore diverso, aveva una cosa che era dai, riuscivi a qualcosa a metterla da parte. Adesso già non ce la fai. Perché non è il coso di cielo, magari tu ti compri quello, ti compri quell'altro. Sì, è vero che compro quello, compro quell'altro, però non riesci a mettere per esempio da parte i soldi. Ora ti posso dire, prima in 2 anni ti mettevi anche da parte 30 milioni, se mi facevi 7.000 cigli anche una trentina di milioni, una ventina di milioni riuscivi a mettere da parte in lire. Ci un pezzo di terreno, queste cose qua, però adesso non ce la fai. Adesso non è capito, io sono arrivato alla conclusione che quando metti da parte qualcosa poi ti succede la castagnata e ce ne diventi di doppio, ho capito? Sì, adesso non ce la fai più, casino, è un bel casino. Quando vai a fare la spesa ti partono 70-80 euro così di colpo, prendo quattro cose. Però mi ricordo che ero spin, riempivo il carrello quando andavo e pagavo nemmeno 50 euro. Adesso non ti bastano mai 80, a volte anche 100. No, vabbè che ho aumentato tutto anche lì, dallo spino ho aumentato tutto. Vabbè, io sto andando da ditta lì vicino a casa che ho un discount lo stesso e qualche cosa già la risparmio, però non riesci a conservarmi, capito? Mi risparmi perché ti servono quasi alla fine del mese, poi non riesci a conservare nulla, è un casino, è un bel casino adesso. Bisogna camminare con i piedi di piombo, capisci? Adesso bisogna a casa qualcosa che si rompe, devi avere sempre qualcosa da fare. Guarda Gianni, io allo spin ci andavo e da un po' che allo spin non sto più andando. Lo sai perché? E siamo convinti che si risparmia, ma non è così. Non è così Gianni, perché se tu guardi a quanto è la carne al chilo allo spin, ti metti le mani in testa. Per esempio mi sono accorto, per esempio una confezione di capocollo, di bracciole, di pancetta, la carne, 10,90 euro, no? 10,90 euro al chilo, in macelleria 7,50 euro, 8,90 euro. Quindi io vado in macelleria, vado dal piccolo, perché risparmio, capito? La gente è convinta male, la gente, perché non guardano il prezzo al chilo, loro guardano, sì, ci sono quattro fettine, però sono tagliate a fette, cosa di salame, comunque costa 3 euro. Se io vado in macelleria, spendo di meno, così con il formaggio, così con il pane, e poi vado a comprare altre roba, la verità, sto andando ai granai, io vado sempre ai granai, perché qua mi trovo bene, e compro qualsiasi cosa, e risparmio. Quando per esempio l'affettato mettono le offerte, mi cucito più, c'è sempre cucito più i funni a 2 euro letto, ne prendi 1,5, 2 etti, c'è il salame che lo mettono sempre in offerta, c'è la puntina, c'è l'offerta della birra, c'è sempre un'offerta di qualcosa, e non ci offerte, sì, ragazzi trovi roba non buona, vado all'Eurospin, la verità, a comprare la pasta per i cani, quel sacco grande per ristorazione, quello io vado una volta ogni settimana per un assaggio, quella trippa in scatola e i wurstel, infatti mi avevano detto cosa mangia sempre, trippa e wurstel e minestra, però come la tutti nulla. Io vado e prendo quella roba che lo spingo, la spesa per casa la sto facendo ai granai perché risparmio. L'altra volta c'era la pasta a voiello, in offerta a 75 centesimi, il pacco, mi ha giubilato questo garrello, capito? Beh certo, sì, ai granai funziona così, no? Ogni settimana fanno l'offerta, una settimana c'è l'offerta di una cosa, poi finisce quella e inizia l'altra, capito? Ogni martedì fanno l'offerta, perlomeno, se non sono cambiate le cose da quando sono andato via io, ma io attaccavo i cartelli, sapevo come funzionava. Le butte della Mondezza, un esempio, le butte della Mondezza, i sacchi, 70 per 110, ai granai li pago 1,80 euro, all'Eurospin costano 2,79 euro, dove ho risparmiato, sono uguali, anzi quelli dei grandi sono molto più forti, capito? Quindi la gente, vado all'Eurospin, fai l'Eurospin, sono convinti, sì, puoi risparmiare, per esempio io per casa prendo le gocciole, ma le gocciole le paghi 3 euro e qualcosa, se guardi i prezzi di quello dello spin costano 2,40, 2,50, ma è Mondezza, già è Mondezza le gocciole originali, figurati chi so cosa è. E poi tante altre cose, noi ci puoi dire i sacchetti delle cipolle qua, io te lo dico perché conosco gente che no, ma io con vado a prendere le cipolle, le pago poco, sì, ma che cipolle prendi, io vado a fruttivendolo, 4 chiodi, 5 chiodi, belle, so che sto mangiando una cipolla, sì, le patate lo stesso, purtroppo è così, io ho fatto quella comparazione di prezzo, ho speso uguale, tu dirai ma ti ho trovato l'offerta, e vabbè, sto attento, trovo l'offerta, ma vado in un negozio dove la roba è come si deve. Oh capita, mi è passato il tempo, non me ne raccolto, dai. Ti devo lasciare, devo portare il teso giù e poi devo andare a prendere la lavoro, dai. Ci sentiamo, dai, se stanno tecni magari mi faccio una cessione anche qua, vediamo un pochettino se c'è qualcosa al televisore, se lo accendo. No, la radio è accesa, io non devo uscire oggi, la radio è accesa e dopo cena sono qua in camera e sto controllando delle cose. Sono qua. Ciao Gianni, a dopo. Beh, tu non ci crederai, te sei venuto da me, ha capito che devo portare giù, te l'immagine, è venuto e mi sta tutto leccato. Già, fidati, già lo capiscono, loro sentono, il cane sente, ha odore e sente l'intenzione del padrone. Lascia perdere che, guarda, sono assurdi, sono fenomenali. Va bene Gianni, ti lascio, anche io adesso faccio qualcosa. Ciao, ciao, dopo. Ciao, ciao, Gabi, ci sentiamo. C'è qualcuno? Ora? Ciao Roberto, buonasera. Ciao Gabi, ben sentito. Ciao Roberto. Aspetta che sto spegnendo una cosa, se no rimane tutto acceso. C'è qualcuno in fondo Roberto, perché sono attenuato. Ups. se disturbi ci sono, ma non sento nessuno in particolare, c'è un po' di corremme, c'è. Non è perché ce l'ha tenuto in servizio, che c'è un casino qua. Beh, è arrivata la cosa nuova, doveva arrivare. No, non è arrivato perché doveva spedirlo, dobbiamo fare un imballo, cioè dobbiamo, deve fare un imballo fatto bene. Quindi sta facendo una scatola in legno, sta dando qualcosa di più di spedizione, però va imballato in legno, un po' assicurato. Già lo so, noi quando spedivamo apparecchiature importanti mi hanno insegnato, mettevamo le bottiglie d'acqua, faccio l'ideale fare una doppia cassa, cioè un doppio contenitore, magari fare una struttura esterna, se riesce a farlo in legno, un telaio in legno, e poi li mette la scatola in cartone. E poi tutte le bottiglie d'acqua intorno, in modo che se sbatte scarica sulle bottiglie, ed è un sistema abbastanza efficace, quella in plastica. Mi sta facendo la camera d'aria in poliuretano, mi spuma poliuretanica. Quella è meglio ancora meglio. E adesso vediamo. Vabbè, tanto non è che ho fretta, non è che lui come è pronto, diciamo, per la spedizione lo manda e gli faccio il bonifico. Mi sta mandando le foto pian piano che sta facendo, ma ha detto anche lui aspettiamo che faccia la cosa fatta bene, lo sta facendo con una camera d'aria, lo sta facendo con, diciamo, la struttura in compensato, da 0,8 gli sta lasciando 5 cm di aria da una parte all'altra, in pratica è una sorta di doppio fondo, dai, con la schiuma, così a tutti i suoi colpi, e dentro qui gli mette il polistirolo, il turibol e lo manda. Ma il video te l'ha fatto vedere di funzionamento? Sì, ho dato il video. Due arriva con 150 watt. È un bel giocattolino, complimenti. No, ma è giusto per averlo. È giusto per averlo. Poi, vabbè, visto la situazione che siamo qua, non è che non ci sia tanto da fare. Ieri ero con Gianni, siamo stati una mezz'oretta, tre quarti d'ora parlando, ma non c'era nessuno, infatti ogni tanto c'era qualche spazio, ho detto se voleva entrare qualcuno, però è un poco deceduto, dai, questo banda, ma guardate, rimangano ma pochi ma buoni, come si suol dire. Ma vabbè.